Non si può parlare dell'Università di Bologna senza nominare l'Archiginnasio, il palazzo che ne è stato la sede tra il 1563 e il 1803, anno in cui fu trasferita a Palazzo Poggi. Cessata la sua funzione di sede universitaria a partire dal 1838, l'Archiginnasio ospita una prestigiosa biblioteca, ancora oggi una delle più importanti d'Italia per la ricchezza e la varietà dei suoi testi antichi. Vi sono infatti conservati circa 35.000 tra manoscritti e incunaboli, documenti stampati tra il 400 e il 500 con la tecnica dei caratteri mobili. Una curiosità: la creazione della biblioteca è stata possibile grazie ai fondi e ai materiali requisiti agli istituti religiosi soppressi durante la dominazione napoleonica. Abbiamo già accennato alla controversia in merito alla fondazione del palazzo. Prima della sua costruzione, infatti, l'università non aveva una sede fissa e le lezioni si tenevano in edifici sparsi per la città, alcuni dei quali sorgevano proprio dove oggi c'è l'Archiginnasio. Papa Pio IV, tramite Carlo Borromeo, all'epoca cardinale legato a Bologna, fece quindi costruire l'Archiginnasio per dotare finalmente l'università di una sede stabile, oppure fu davvero un pretesto per impedire lo sviluppo laterale della Basilica di San Petronio? Gli storici propendono per la prima ipotesi, soprattutto perché il Papa in questo modo intendeva esercitare maggior controllo sullo studium, mettendo formalmente la parola fine all'indipendenza dell'istituzione universitaria dall'autorità religiosa. Dopotutto il Papa aveva recentemente ottenuto pieni poteri sulla città, dopo secoli di lotte sanguinose per sedare i rigurgiti indipendentisti del comune prima e i tentativi di signoria bentevoleschi poi. Interrompere lo sviluppo della basilica fu probabilmente un ben accetto effetto collaterale. Dotato di un lungo porticato, 30 arcate disposte su ben 139 metri e strutturato in due piani, l'Archiginnasio è stato la prima sede stabile di un'università al mondo. L'interno del palazzo si presenta con un cortile centrale con due ordini di gallerie. Le pareti sono decorate dall'incredibile numero di 6.000 emblemi araldici delle associazioni degli studenti che si sono susseguite nei quasi 10 secoli di storia dell'università. Un tempo erano 7.000, ma un migliaio sono andati dispersi durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Spesso si trovano raggruppati intorno a un piccolo monumento che celebra il prestigio di un docente o un cardinale protettore. Si tratta della più vasta raccolta murale di stemmi araldici esistente al mondo. Due ampi scaloni conducono al piano superiore, dove si trovano le aule scolastiche dei legisti e degli artisti, oggi non visitabili. Vale la pena notare che, come a sottolineare la maggiore importanza del diritto sulle altre discipline, le aule dei legisti sono tutte disposte lungo il corridoio principale. Inoltre, questi ultimi disponevano di 10 aule, ovvero tante quante erano dedicate a tutte le altre discipline messe insieme. Al primo piano si trovano anche le rispettive aule magne. Quella degli artisti è oggi utilizzata come sala lettura della biblioteca, mentre quella dei legisti è chiamata Stabat Mater dal 1842, quando fu teatro della prima rappresentazione dell'omonima opera di Gioacchino Rossini con la direzione di Gaetano Donizetti. Particolarmente suggestivo il teatro anatomico, dalle pareti completamente rivestite di legno. Costruito nel 1637 da Antonio Levanti, rispose all'esigenza di adibire un luogo stabile alle lezioni di anatomia effettuate su cadaveri umani. Non a caso, il baldacchino della cattedra è sostenuto da due statue in legno, i celebri scorticati, realizzati in legno da Silvestro Giannotti su indicazioni di Ercole Lelli nel 1734. Si tratta di due figure umane con i muscoli esposti. Una nota. Al centro del soffitto a cassettoni è presente una raffigurazione del dio Apollo, considerato dagli antichi l'inventore della medicina, circondato da immagini astrologiche. Questo dimostra che nel 600, il secolo dei lumi, erano convinti che gli astri fossero in grado di influenzare le attività umane, anche nel caso delle neonate scienze della medicina e della chirurgia. Per motivi di igiene, le lezioni pratiche di anatomia si svolgevano nel periodo più freddo dell'anno, dal 17 gennaio alla fine del carnevale, durante il quale l'ingresso era consentito anche alle autorità cittadine con funzioni di controllo e di rappresentanza. Si trattava di una vera e propria cerimonia con i suoi rituali e non era raro che, proprio durante le festività del carnevale, curiosi mascherati ne approfittassero per intrufolarsi nell'aula e assistere alle lezioni prima di proseguire i festeggiamenti altrove. È riconosciuto che il primo a sostenere l'importanza dello studio dell'anatomia fu il bolognese Mondino De Liuzzi, che il 1 gennaio del 1315 tenne la prima lezione pubblica utilizzando un cadavere umano. Solo nel 1570, tuttavia, venne istituita la cattedra di anatomia pratica. Ci furono altri bolognesi che diedero un contributo determinante allo sviluppo della medicina moderna. Non va dimenticato a tale proposito che fu un bolognese già nel XIII secolo il primo a promuovere la necessità dell'igiene personale, della cura dentaria, della ginnastica quotidiana e a incoraggiare persino i controlli sanitari nelle scuole. Si tratta di Taddeo Alderotti, istitutore nel 1250 presso lo Studium della Cattedra in Medicina. Parliamo di un'epoca in cui la Chiesa aveva un atteggiamento ostile verso la pulizia personale, arrivando a decretare la chiusura dei bagni pubblici, considerati luoghi di dissoluzione. E come Galileo fu il primo a utilizzare il cannocchiale per osservare gli astri, il professore bolognese Marcello Malpighi, nel 600, fu il primo a utilizzare il microscopio in medicina, grazie al quale scoprì i vasi capillari, che chiamò così perché secondo lui assomigliavano a un capello. Fu anche il primo a osservare i globuli rossi, scambiandoli però per particelle di grasso. Nonostante i numerosi riconoscimenti da parte della comunità scientifica internazionale, fu membro della Royal Society di Londra che a partire dal 1669 pubblicò tutte le sue opere. A Bologna Malpighi fu avversato da una schiera di ottusi professori legati all'antica medicina di Galeno che tentarono in ogni modo di boicottare i suoi studi. Parliamo di medici che al momento di proporre una terapia a un paziente ne eseguivano per prima cosa l'oroscopo. Il mago della chirurgia.